Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, stasera Barcellona-Chelsea, domani Manchester United-Arsenal. Non serve essere sterofili per pensare di potersi rifare la bocca rispetto agli spettacoli di casa nostra con due partite come queste. Ma non solo, nell'appuntamento del martedì col panorama internazionale c'è spazio per la vigilia di Real Barcellona. Sabato sera in campionato con i madridisti risaliti a meno 4, c'è spazio per il grande equilibrio nel campionato francese e tedesco che si è creato o ricreato, per il licenziamento di Klinsmann dalla panchina del Bayern quando mancano solo 5 giornate alla fine, e molto altro ancora in compagnia di Fabio Tavelli. Buondì Fabio. Buongiorno Gigi, un saluto a tutti. Senti, io partirei da questa cura intensiva e benefica di calcio del Barcellona che ci aspetta stasera. Chelsea, sabato Madrid, mercoledì prossimo a Ricelsi. E vado avanti, perché poi c'è la finale di Coppa del Re, c'è il Villarreal in campionato. Cioè, è un momento nel quale onestamente Guardiola non può fallire. Il calendario ha previsto per il Chelsea una quindicina di giorni davvero pazzeschi, perché c'è la semifinale di Champions League, c'è un campionato certamente riaperto dal Real con una sfida che il Barcellona deve giocare contro il Real, poi c'è la finale di Coppa del Re e insomma in Spagna giustamente ci tengono moltissimo questa Coppa, quindi saranno i 15 giorni che ci diranno tutto del Barcellona. Sinceramente quando accadono queste cose c'è anche un po' di crudeltà nel calendario, perché dovesse non andar bene questo rischierebbe di cancellare gran parte di tutto quello che il Barcellona ci ha fatto vedere, essendo abituati per cultura e formazione a pensare che i vincenti sono solo i vincitori. Il rischio è di disperdere un po' di quello che il Barcellona ha fatto. Io mi auguro di no, nel senso che credo che il Barcellona possa sinceramente vincerle tutte e tre queste competizioni, però è vero, il rischio è reale. Il rischio è reale in questo momento, reale viene facile come gioco di parole. Il Real è rientrato, se voi parliamo prima della Liga, il Real è rientrato, il Real adesso è a meno 4, gioca il classico in casa sabato e quindi ha la speranza di arrivare a meno 1 a 4 giornate dalla fine. Poi sono 4 giornate non facili, perché il Real, posto che naturalmente vinca sabato col Barcellona, avrà due trasferte difficili con Valencia e Villarreal. Però saremmo all'ottava vittoria consecutiva e saremmo alla 18ª vittoria su 20. Ecco, questo è il dato impressionante da quando è tornato Wander Ramos, in effetti. Cioè che non è tanto la qualità del gioco, perché da questo punto di vista vedere il Barcellona è uno spettacolo quasi sempre, e vedere Real assai meno. È una sofferenza. Spesso e volentieri. Però il dato, cioè, sembra di essere tornati davvero ai tempi peraltro recenti di Capello al Real Madrid. Sì, non solo Gigi, io credo che quest'anno la Liga però vada analizzata complessivamente, ed è un campionato povero. È un campionato povero perché una squadra come il Real Madrid l'abbiamo vista anche in Champions League, e l'abbiamo vista anche prima in Champions League, battuta dalla Juventus. Non è una squadra che in un campionato come la Liga degli anni scorsi avrebbe potuto vincere tutte queste partite. Non dimentichiamoci che il grande lavoro di Wander Ramos è stato punteggiato anche da tanti infortuni. Questa è una squadra che ha perso Van Nistelrooy ormai da mesi, non possiamo dimenticarcelo. Il Barcellona non ha rallentato, il Barcellona sta facendo un campionato fantastico, il Barcellona ha molti punti più dell'Inter che con lo stesso numero di giornate guida abbondantemente il campionato italiano, quindi l'anomalia è il ritorno al passato, il ritorno al fatto che la terza è spaccata in una maniera pazzesca, la terza è Siviglia che in una settimana ha preso schiaffi sia dal Real che dal Barcellona in maniera abbastanza evidente e numericamente importante, quindi in Spagna quest'anno è mancata veramente la terza forza, cioè se in Italia è mancata la seconda forza e sta mancando la seconda forza, in Spagna in questo momento sta mancando la terza. È vero, anche se poi sulla seconda forza italiana insomma, qualche suggestione si è riaperta a partire da domenica sera, ma per il momento stiamo parlando di suggestioni, non di candidature reali. Forse delle tre inglesi che il Barça poteva pescare, essendo ce ne tre in semifinale, ha pescato quella che gioca un calcio meno brillante ma la più tattica, la più fastidiosa da quel punto di vista, così a grandi linee. Sono d'accordo. d'accordo, credo che in stiamo ragionando su due partite, dobbiamo ragionare su due partite. L'avversario migliore a parer mio per il Barcellona sarebbe stato l'Arsenal, perché è una squadra che gioca in maniera simile. È come nel tennis, quando tu hai un gioco simile a quello di Nadal, ma tu non sei Nadal, Nadal solitamente vince, e in una partita 3 su 5 è quasi sicuro che Nadal vincerà. Magari in una partita 2 su 3 puoi sorprenderlo, su 3 su 5 è difficile. Il Manchester ha una caratura superiore certamente sia al Chelsea che all'Arsenal. Il Chelsea però è una squadra che poi può un po' imbrogliare le carte al Barcellona. Ha un metronomo vero di centrocampo sia in fase di copertura che in fase di rilancio come Essien. E insomma, se riesce a reggere e a resistere alla forza d'urto che il Barcellona metterà subito, cioè palla a terra, velocità, verticalizzazioni forsennate, io credo che il Chelsea possa anche poi tenere viva la competizione per la gara di ritorno, non prendere un'imbarcata come hanno fatto altre squadre in casa al Camp Nou, sì, e giocarsela in casa. Sì, credo che sia pericoloso, sia molto pericoloso il Chelsea per il Barcellona. Anticipando invece domani, anche in questo caso facciamo come hai suggerito tu dall'inizio, cioè anticipiamo Manchester Arsenal con questo con un piccolo passo indietro. Allora, l'Arsenal ha ritrovato Fabregas non solo come costruttore ma anche come finalizzatore. La rimonta del Manchester di sabato è un segnale di debolezza prima, ma di potenza ritrovata poi, impressionante. Sì, impressionante, anche se il Manchester non può permettersi in Champions le amnesie del primo tempo contro il Tottenham di sabato, questo è sicuro. Già il Manchester ha pagato un minimo di leggerezza nella semifinale di FA Cup contro l'Everton. Credo che Ferguson sia la persona migliore al mondo per non ripetere gli stessi errori. E dici giustamente tu, nel senso che va letta in due modi: da un lato c'è un po' di debolezza, però ripeto, il campionato non è la coppa, i gol che prendi li paghi tanto e tantissimo, e non è detto che tu riesca semplicemente a fare un altro gol per poterli recuperare. Quindi c'è certamente una dimostrazione di forza che quando il Manchester United riesce a sviluppare, credo che quasi nessuna squadra, nemmeno il Barcellona a livello difensivo, possa reggere. Però è una squadra che ultimamente ha concesso qualcosa agli avversari, e questo mi porta a pensare che, giocando la prima in casa, se dovesse lasciare qualcosa all'Arsenal potrebbe poi pentirsene amaramente nella gara di ritorno. Io vedo il Manchester United favorito, devo ancora incassare la cena con Nicola Roggero per la vittoria a Oporto. Però credo anche che questa volta siamo 51-49, non è abbondantemente favorito il Manchester United. No, sono d'accordo, è più favorito in campionato certamente di quanto sia in Coppa, perché insomma 3 punti di vantaggio con una partita non difficile da recuperare, e mi pare che in Inghilterra ne manchino 5 anche lì, alla fine 4, sì. Ma 5 per lo United credo che sia il trofeo più alla portata attualmente. Come mai si è creata per tuo questo livellamento improvviso nei campionati, ma in generale, perché abbiamo ricordato appunto che Real si è rimesso in scia del Barcellona, in Inghilterra non è chiuso, soprattutto in Germania e in Francia siamo quasi alla mucchiata in testa, anche se in Francia per la verità Marsiglia e Bordeaux, che deve recuperarsi, sono staccate un po'. Ma a parer mio la parola chiave è la chiacchiera, cioè da marzo in poi inizia una fase che è forse la fase più antipatica, nella quale sia noi a vari livelli, a vario titolo e in vario modo, sia i tifosi cominciano a destabilizzare un po' le squadre. E quindi quando cominciano le chiacchiere sul futuro, quando cominciano le chiacchiere sui destini degli allenatori, quando cominciano le chiacchiere sulle società, i giocatori purtroppo, e sottolineo doppiamente stai parlando, scusami, dell'estero? Stai parlando... No, sto parlando in generale. Perché sembrava un ritratto, cioè un ritratto, insomma un affresco di quello che sta accadendo alla Juventus per esempio, ma che minaccia di accadere all'Inter. Se accade anche all'estero vuol dire che davvero tutto il mondo è paese allora. No, il mondo è paese anche all'estero. Si tratta di chiacchiera ovviamente fatta molta tara, nel senso che il livellamento che c'è in Spagna è un livellamento che però riguarda solo due squadre e quindi è figlio semplicemente del fatto che ci sono due squadre che corrono, una squadra ogni tanto, diciamo una partita ogni 6-7 pareggia, che è il Barcellona, l'altra ha infilato una serie pazzesca, sì, di vittorie anche con un pizzico di fortuna a volte. Il Barcellona non è, diciamo, investito dalla chiacchiera. Diciamo che la chiacchiera ha colpito molto il Bayern di Monaco, perché quello è un esempio quasi italiano. Sarà che Monaco non è troppo distante dalle Alpi, ma tutte le chiacchiere su Ribéry, tutte le chiacchiere sulla dirigenza spaccata in due, da una parte Rummenig e dall'altra parte Hoeneß, tutte le chiacchiere riguardanti la presenza di Jürgen Klinsmann, questo certamente non ha stabilizzato l'ambiente. Una squadra spaccata in due con due, anche tre forse, clan all'interno del Bayern di Monaco. Cosa simile che è accaduta in Francia, dove però c'è l'attenuante per il Lione di venire da 7 titoli consecutivi, sì, in 7 poi, anni. Esatto, un po' di sazietà la generano, mentre invece per l'appunto la situazione Bayern poi è sfociata addirittura, non è abituale per una società, no, di quel calibro, ma anche di quello stile, direi, di quelle tradizioni, cacciare il tecnico a 5 partite alla fine. No, non solo, andando poi a rispolverare un vecchio trofeo o comunque una vecchia argenteria come Jupp Heynckes, che l'ultima volta ha allenato il Bayern di Monaco nel 91, è certamente un allenatore importante, certamente un allenatore di grandissima esperienza, però il Bayern di Monaco che conosciamo non è una squadra, che non è una società che caccia l'allenatore a 5 giornate dalla appunto. Fine, ed è evidente che lo ha fatto perché non ne poteva più di una situazione climatica interna tra squadra, spogliatoio e tutto il resto, che non era evidentemente più gestibile. Tieni conto che il Bayern di Monaco non solo rischia di non vincere la Bundes e deve ringraziare il Wolfsburg che ha perso col Cottbus sciaguratamente, sì, domenica, ma rischia di arrivare quarto e di non fare nemmeno la Champions League l'anno prossimo. Questo ridimensionerebbe tantissimo i piani. L'anno prossimo potremmo non vedere in Champions il Lione e il Bayern di Monaco, insomma sarebbero delle perdite importanti per la Champions League, per l'UEFA, ma anche e soprattutto per le due società, per le rispettive società. In questo effetti libera, questo libera grandi giocatori, perché Benzema non resta al Lione se il Lione non fa la Champions League, certo. Ribéry e Toni non credo vogliano rimanere a Monaco senza la Champions League, e quindi questo apre scenari, e non a caso queste squadre poi, quando gli scenari si aprono, la chiacchiera si moltiplica e le squadre, guarda caso, ne risentono. Grandi giocatori Ribéry e Toni, grandi e grossi direi, nel senso che il primo è grande e il secondo è grosso attualmente, attualmente. Sì, diciamo, sì, che sembra in una fase un pochino di discesa, anche se non è detto, e comunque avevo sott'occhio questa classifica. È vero che dal Wolfsburg 57, passando per Hertha e arrivando a Bayern, Stoccarda e Hamburgo a pari merito a 54, sono 5 squadre che si giocano tutto per l'appunto nelle ultime 5 giornate. Abbiamo detto anche di Klinsmann, abbiamo detto dell'inevitabile staffetta per il titolo, come direbbe un nostro conoscente, in Francia, perché il duello ormai è tra Marsiglia e Bordeaux, Lione è praticamente tagliato fuori. Beh, ormai Lione sì, perché il pareggio contro il Paris Saint-Germain è stato la pietra, credo, tombale per le loro speranze. Credo che debba rifondarsi, credo che gli possa fare anche bene rifondare, perché è evidente che continuare a vincere il campionato francese non bastava più, ma il Lione non riusciva a fare il passo oltre gli ottavi di finale della Champions League. Credo che sarebbe stato meglio per loro, o sarà meglio per loro, farla comunque alla Champions League prossima, perché garantisce comunque di farsi il girone di qualificazione e di prendere un bel po' di soldi, ma dovendo passare dal preliminare oppure non passandoci nemmeno, il Lione sarà costretto a rivedere il budget e sarà costretto a ridimensionare gli obiettivi, anche se in Francia, e il Lione in questo caso non è una società sprovveduta, molte squadre, potendo pescare nel grande serbatoio magrebino, riescono poi ad avere a disposizione dei giovani interessanti da rivendere. Benzema, se dovesse andare al Barcellona o dovesse andare al Real Madrid o a una grande squadra comunque europea, farmi entrare nelle casse quattrini nel frutta, sicuro, tanti soldi, e ci puoi fare una squadra in Francia con quei soldi lì. Non escludo che ci risentiremo nei prossimi 2 giorni per aggiornare l'accaduto in Coppa Campioni. Molto volentieri. Credo, Gigi, che sia tu che anche i tuoi ascoltatori abbiano visto il secondo gol di Ronaldo contro il Santos. Io non ancora, ma continuano ad arrivare messaggi da ieri ininterrottamente. Credo che sia su YouTube e quindi vattelo a vedere, perché è molto simile a quello di Ibrahimovic contro la regina. Qui so che non mi attirerò delle simpatie, quello l'ha segnato contro il Santos in una partita valida per il campionato, molto importante, la gara d'andata in trasferta nello stadio di Pelé, Ibra l'ha segnato contro la regina, in ogni caso trattasi di grande, grande, grande prodezza. Due gol di sinistro, per un giocatore ancora palesemente sovrappeso, niente male. Il talento non si cancella mai. Grazie Fabio Tavelli. Credo che lo rivedremo in Sudafrica l'anno prossimo. Sì, non su YouTube. Grazie allora a Fabio Tavelli. Torniamo a casa nostra con qualche intervento su questo potenziale rinnovato duello tra Inter e Milan, per il momento molto potenziale, ma insomma in ogni caso di una qualche suggestione. Il campionato, l'Inter ha sprecato due match point già, contro il Palermo prima e contro la Juventus poi, e perdendo a Napoli, quindi mettendo insieme soltanto due punti sugli ultimi nove disponibili, è ovvio che qualche minima speranza e qualche perplessità sul suo conto innanzitutto, ma anche qualche speranza altrui, non può non averla rinfocolata. Allora sentiamo come l'hanno presa e come la stanno sviluppando anche ai massimi livelli. Sentiamo Berlusconi sulle polemiche che già sono nate tra le due fazioni. Ho detto wait and see, aspettiamo e vediamo. Qualcuno ieri sera, ho sentito Galliani al telefono, che faceva questa riflessione: senza quel gol di mano di Adriano avremmo avuto 3 punti in più noi e 3 punti in meno l'Inter, saremmo a meno uno. E io ho detto che col condizionale nel calcio non si va da nessuna parte. Ha risposto, a stretto giro di posta, ha risposto Moratti dall'altro fronte. Sentiamo anche lui. Milan ha fatto un campionato più o meno come la Juventus quest'anno, quindi sono pari le due tipi di società. No, preoccupa il fatto che noi dobbiamo far bene, niente di più. No, è su di noi il discorso. Penso che devo contare i rigori del Milan, poi dopo rivediamo. I rigori del Milan in effetti sono 12, leggevo stamane una statistica che è il numero più alto nelle ultime 5 stagioni di calci di rigore concessi, ne ha subiti 4. Il saldo attivo, visto che ormai ci si diletta in ambito di tifoserie, anche ai livelli più alti come avete sentito, su questo genere di provocazioni, il saldo dell'Inter attuale è di 4 rigori all'attivo contro 0 al passivo. E credo che siamo arrivati al terzo anno consecutivo che c'è il numero 0 alla casella rigore al passivo, però il Milan ha avuto i 12 contro 4, quindi il saldo attivo è di 8 ed è indubbiamente più vantaggioso, ammesso e non concesso che poi col calcio di rigore si vincano i campionati, cosa che storicamente non è affatto dimostrata, ma insomma serve. Tutto serve ad alimentare rivalità. Farei un passetto indietro però, proprio una parentesi, per poi chiudere in maniera definitiva, a meno di vostri interventi, il capitolo internazionale, perché c'è, tratto da Sky come sempre, c'è una vigilia di Guardiola, cioè del tecnico del Barcellona, che insomma ha riportato questa squadra a livelli altissimi di qualità calcistica. Dobbiamo essere più coraggiosi, più bravi in essere protagonisti di la gara. Andiamo avanti, non importa, andiamo a pressare su, andiamo a segnare più gol possibile, a giocare con grande possesso di palla, con grande velocità di palla, e questo è quello che faremo. Poi vediamo che succede, se vinciamo. Il miglior Barça gioca così in effetti, e quello di sabato a Valencia, che ha stentato e che ha rimontato solo nel finale, non è riuscito proprio ad attuare quella pressione così alta che è l'origine tattica del suo calcio spettacolo, tattica, perché poi l'origine più vera è quella tecnica, perché ci sono 3-4 giocatori nella metà campo altrui che hanno piedi e velocità combinati abbastanza impressionanti, su tutti Messi, ma subito a ruota in questo momento perlomeno Iniesta. Il primo intervento di oggi, Savino ha chiamato da Belluno, buongiorno. Buongiorno Garanzini, complimenti per la trasmissione prima di tutto, e due piccolissimi interventi veloci. Il primo riguarda il Bari. secondo me sta facendo un campionato stratosferico, con un organico sicuramente migliorato, ma che all'inizio era sicuramente inferiore a quelli del Parma, del Livorno e di altri grandi blasoni che sono attualmente in Serie B. Una squadra che gioca con quattro attaccanti continuamente, che sta facendo vedere dell'ottimo calcio, quindi gradirei un suo parere. Secondo, volevo fare un intervento per quanto riguarda la Juve. Secondo me, con il fatto che per il 90% del campionato ha tenuto fuori due terzi del centrocampo titolare, come Zanetti e Camoranesi, non dico come livello, ma a parità, diciamo nell'organico, è come se all'Inter togliessimo Cambiasso e Stankovic. Voglio vedere, insomma, cosa succederebbe. La ascolto in diretta. Sì, per Savino, no, non sul Bari, perché non ne ho sinceramente idea. C'è già troppo calcio in Serie A e in ambito internazionale per riuscire a seguire decentemente anche la Serie B, quindi è inutile. È inutile sdottorare su cose che non si sanno e non si conoscono. Aggiungasi Sokò, se parliamo di centrocampo di Juventus, aggiungasi Sokò, che è saltato nella fase decisiva dopo che si era affermato come, se non il leader, comunque il trascinatore di quel centrocampo, e avrà in effetti delle attenuanti che non sono generiche, sono attenuanti assolutamente concrete, ma insomma, lo vede anche lei, la memoria dei tifosi è labile e direi che lo è anche in buona parte quello della società da questo punto di vista, visto alla luce di come si è comportata. È stata stamane ancora contestata la società dagli ultra, insomma è un rapporto che già non è mai stato idilliaco, ma che mi sembra si sia ulteriormente peggiorato in questi ultimi giorni, forse in queste ultime settimane. Da Verona ha chiamato Mario, buondì. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Senta, intanto mi dispiace che siamo in Italia e non possiamo assistere a un finale di campionato divertente, perché che se ne dica, per me è finito da un bel pezzo. Quindi ecco, la mia domanda era questa qua. Spesso negli ultimi tempi Messi viene paragonato a Maradona, così fantasticando. Secondo lei quanto avrebbe resistito Maradona con gli attuali ritmi che hanno le squadre? Cioè, trovarsi già a luglio a fare le amichevoli con squadre a livello internazionale. Ecco, la ringrazio. Questo non lo so, però questo non ho idea, ma insomma quando la classe è quella, quando quello è talento, secondo me è ragionevole pensare che uno nasce nella propria epoca, diventa grande nella propria epoca, ma difficilmente sarebbe un brocco in un'altra. Chissà se sarebbe lo stesso tipo di campione. Poi non sono tanto le amichevoli estive, sono quelle che turbano la preparazione, che impediscono una preparazione perfetta, però insomma i pesi veri estivi sono invece i turni di qualificazione. Insomma, noi in Italia ne abbiamo due esempi quest'anno. Il Napoli ha fatto l'Intertoto e mi pare che il Napoli da un certo punto in poi della stagione si sia smarrito. La Juventus ha fatto i preliminari di Champions e mi sembra che ad un certo punto abbia cominciato a far molta fatica, e quindi vede che sono queste le cose che poi influiscono veramente sul rendimento. Il resto, cioè le grandi amichevole estive, questa rinuncia, a parer mio inspiegabile, a una preparazione più graduale, più seria, a parer mio, ma soprattutto a parer dei medici sportivi, influisce di più sugli infortuni, probabilmente sul fatto che questi giocatori, non avendo una riserva di preparazione come si deve, si infortunano comunque molto, ma molto più di una volta. Questo è un dato, questo sì che è un paragone che si può fare. Ci sta ancora? Sì, Leonardo da Bari, prima dell'intervallo. Dica, buongiorno. Buongiorno, signor dottor Garanzini, sì. Io la stimo moltissimo, però volevo, lo so che non ha tempo forse di occuparsi, ma la peculiarità del Bari è che ha 13 punti dalla terza e lunedì, se vince, va in Serie A. No, dire, i numeri li conosco. È storico, ecco, appunto, siccome ha detto, non so, c'è un tale Guberti che piace molto alla Roma, Conte che probabilmente si dice va dalla Juventus, e poi possiamo parlare di Barreto, di altri giocatori che hanno fatto parlare di Secco, anche chi mi ha preceduto, io solamente questo, parlare di un greco, di una squadra che sta facendo divertire, credo anche in mezza Italia, per chi ha la possibilità di vederla, anche se siamo ahimè in Serie B, però veramente ma certo, un po' l'Ascoli di Renna, ecco. La ringrazio di aver colmato questa lacuna documentale, Leonardo. Anche Roberto Mancini sta per rientrare in pista, ci sono voci, a parer mio, abbastanza poco attendibili, che lo danno in corsa per panchine italiane, a cominciare da quella della Juventus. Ce ne sono altre invece che lo vorrebbero, qualcuno lo voleva a Monaco, invece il Bayern si è sistemato per linee interne, qualcun altro lo vorrebbe al Manchester City, questa è forse un'ipotesi più plausibile. Sentiamolo ai microfoni di Sky parlare del suo futuro. Credo che questi siano i mesi importanti, insomma, appena ci sarà una possibilità valida la prenderò in esame. Non c'è nessuna preferenza al momento, anche perché non c'è niente di concreto e nonostante tutto quello che si dica, quindi nel momento in cui ci saranno possibilità, ci saranno delle cose serie, delle valutazioni da fare, insomma, allora in quel momento lì si potrà decidere. Ecco, al momento non c'è assolutamente niente. Nel frattempo ha trovato panchina Mitchell, qualcuno lo ricorderà, ex grande centrocampista del Real degli anni 80, ha preso il posto di Victor Muñoz, ex grande centrocampista a sua volta, sia pur più di fatica che rispetto alla qualità di Mitchell, ex del Barcellona, dicevo, Victor, esonerato dalla panchina del Getafe, insomma, va via un ex barcellonista, arriva un ex madridista come Mitchell. Il Getafe è a 5 giornate dalla fine, ha un solo punto di vantaggio sulla terz'ultima, ai margini della zona retrocessione. Un paio di ascoltatori e poi una bella lettura. Stefano da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Io chiamo in veste di tifosissimo rosso-blu, visto che il Bologna, anche se il Bologna è in una situazione di classifica, di quella situazione di classifica che invece che essere la squadra che tremare il mondo faceva e che giocava come solo si fa in paradiso, adesso rischia di andare all'inferno. Stiamo parlando di 80 anni fa, oltre a quelle metafore da regime fascista in piena regola proprio. Vabbè, ma comunque. Al di là di questa considerazione, senta, no, io le pongo una domanda più seria e più diretta. Proprio vedendo il Bologna al Dall'Ara, dal vivo e in televisione su Sky nelle trasferte, e vedendo poi per televisione anche Torino, Lecce, Regina e altre squadre, mi sono posto questa domanda. Non sarebbe il caso, secondo lei, che vedendo certe difese con dei limiti, come dire, oggettivi, perché ci sono dei giocatori, insomma, che hanno sostanzialmente, vuoi per l'età, vuoi per altro genere, appunto, dei limiti evidenti, che gli allenatori sposassero, anche se è una soluzione un po' anacronistica e superata, la scelta della difesa a uomo, anche se la zona oggi si deve fare per forza, visto che bisogna portare a casa la pagnotta della salvezza, che è un bene primario, perché andare in B è un danno di immagine, ma soprattutto un danno economico. Quando vedo certi giocatori messi in linea a giocare a zona, dico, ma se forse si giocasse a uomo, anche a centrocampo, almeno in Bologna, perché poi fortunatamente ha San Marco di Vaio davanti, che riesce a compensare le lacune difensive ogni tanto, ma anche altre squadre come il Torino, forse si riuscirebbe a prendere... Ma bisogna vedere, Stefano, mi scusi perché sta andando un po' lunga e ci sono molti ascoltatori in attesa, bisognerebbe vedere se i difensori sono ancora in grado di difendere a uomo come usava un tempo, perché è un tipo di istruzione proprio che non si fa più già dai settori giovanili. Poi, giusta o sbagliata che sia, io non entro nel merito della tesi, o meglio, ci entro sì. Io mi ricordo, faccio fatica a dimenticare una vecchia frase di Giovannino Trapattoni, ma stiamo parlando di una ventina di anni fa, quando non voleva sapere, quando gli proponevano per l'appunto la zona, lui non ne voleva sapere. E rispondeva sempre: chiedete a Riva, Boninsegna, chiedete ai grandi attaccanti di oggi, e cioè di allora, o di ieri, e ad altri che nel frattempo erano di attualità allora, chiedete se preferiscono essere marcati a uomo o a zona. Sentite la risposta e capirete perché io continuo a privilegiare marcatura a uomo. Oggi è fuori moda, forse sarebbe addirittura reato ideologico a dar retta a sacchi ai suoi seguaci. In qualche caso probabilmente invece servirebbe ancora, a patto di saperlo fare, cosa che forse non si riesce più a saper fare. Mimmo Varese, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Volevo sapere da lei un giudizio sulla stagione di Mourinho come allenatore dell'Inter. Praticamente il girone eliminatorio della Champions League ha faticato, agli ottavi è stato eliminato, ha fatto acquistare Quaresma, un giocatore da lui voluto fortemente, delusione, e poi diciamo aspettiamo la fine del campionato per vedere chi vince questo campionato, già si potrebbero tirare delle somme come allenatore special one e da 9 milioni di euro a stagione. La risposta per radio, grazie, arrivederci. La risposta è, io ci aggiungerei aggiungerei a tutto quello che lei ha detto e che personalmente sottoscrivo, aggiungerei l'inquinamento, il tasso di inquinamento che ha portato nel calcio italiano da un punto di vista di turbolenze ulteriori di cui davvero non si sentiva il bisogno. Il bilancio attuale è questo e a parer mio non muta, comunque finisca la stagione, che non può che finire come è scritto per ragioni evidenti, obiettive. Credo che c'è un limite anche alle rimonte e ai suicidi, anche se nella storia del calcio italiano ogni tanto qualcuno lo registra, ma questo non mi sembra la stagione. Vi dicevo di una bella lettura che è quella dell'articolo di fondo di Matteo Marani, il direttore del Guerino Sportivo, uscito sul Guerino di stamane. Dopo aver all'inizio ricordato come Delio Rossi, Spalletti, Prandelli, Mourinho, Ranieri, un po' tutti quest'anno si siano lamentati della stampa, e cioè di come sia la stampa sportiva a parer loro a inquinare i rapporti, scrive Matteo Marani, non mi risulta che ai tempi di Brera e Palumbo mancassero le polemiche sui giornali o che ci fosse più buonismo nei loro editoriali. Per stare a Gualtiero Zanetti riusciva a far cacciare i commissari tecnici, figuratevi voi, ma nessuno lo avrebbe mai accusato di essere un nemico dell'Italia. Dunque cosa è successo? Semplicemente è arrivata la televisione, che dopo aver annichilito lo spettacolo in campo, riducendolo a un prodotto da vendere come il caffè Lavazza, ha spolpato pure il dibattito. In TV non bisogna scontentare l'ospite, bisogna glorificarlo e venerarlo, perché senza di lui non si fanno ascolti. Anche in mancanza di interviste, sui giornali puoi sempre proporre un'inchiesta o trovare lo spunto per un buon pezzo da scrivere. Nel tubo catodico il VIP è indispensabile come Ibra all'Inter. Fate un conto di quanto tempo tengono Mourinho a Sky nel dopogara, informatevi sul gettone pagato da Chiambretti al portoghese, ascoltate il tono usato coi protagonisti. Per metterli a loro agio si fa una lunga premessa piena di elogi e si usa una dichiarazione terza per la domanda. Vuole rispondere a Tizio? Ha sentito cosa ha detto Caio? Delizioso questo articolo, che continua e finisce così. Tra un complimento di Massimo Mauro a Spalletti e un minuetto di Maurizio Mosca con Gagliani, i protagonisti del calcio hanno ritenuto che tutto dovesse funzionare così, con giornalisti amici o di scuderia. Ecco perché i cronisti che seguono le squadre, obbligati a dar notizie, comprese quelle sgradevoli, hanno finito per diventare gente sospetta, infida, che nella sintesi elementare di chi è cresciuto masticando più schemi che libri, si riassume nell'idea di nemico malevolo. Difficile ricucire lo strappo, almeno finché dall'altra parte dell'informazione, e cioè quella televisiva, continueranno a essere sparsi litri di saliva ogni domenica. L'unica speranza è che gli allenatori si rendano conto di quanto è pericoloso buttare benzina sul fuoco, specie in certe piazze, e rispettino il lavoro di tutti, anche di chi dissente da loro. La manifestazione libera del pensiero non sta sui manuali di Coverciano, ma nella Costituzione italiana. Ripeto, Matteo Marani, direttore del Guerin Sportivo. Giuseppe, provincia di Lodi, buongiorno. Buongiorno a lei, Garanzini. Dica. Buongiorno e auguri per la trasmissione. Senta, io volevo un po' ritornare alle origini di questa trasmissione in cui si parla della diatriba fra i due presidenti, uno che rivendica i rigori, quell'altro che rivendica i falli di mano. Allora, per quanto riguarda i rigori, non ho niente da commentare, sono comunque sia un fatto, oserei dire, opinabile, soprattutto perché una volta concesso un rigore non è detto che il rigore sia realizzato, ma sinceramente non capisco la matematica dell'altro presidente che per un gol di mano valuta 6 punti di differenziale. Me lo sa spiegare? No, e non lo so spiegare né a lei né ai 10 o 20 ascoltatori che hanno scritto, direi più 20 che 10, che hanno scritto altrettanti sms nel frattempo chiedendosi come conta, cioè qual è il metodo di calcolo del nostro Presidente del Consiglio. Lo ignoro e preferirei continuare ad ignorarlo, sinceramente. Uber ha chiamato da Reggio Emilia, buongiorno. Uber è caduto, mi informa dalla regia, è caduto nel senso che non è che si è fatto male, è caduta evidentemente la linea. Il prefetto di Milano, Gian Valerio Lombardi, sentito il questore e in accoglimento dell'invito dell'osservatorio del Ministero degli Interni, ha adottato per Milan-Juventus il decreto contenente le seguenti misure: vendita di un solo biglietto per spettatore, incedibilità del biglietto per ogni settore, fatta salva la cessione del solo abbonamento, cioè restrizioni, in altre parole, per Milan-Juve, in programma non questa domenica ma quell'altra che verrà domenica 10 maggio a Milano. Un ascoltatore che si firma Marco ricorda che Così si gioca solo in paradiso fu coniato nel 64 per quel bellissimo Bologna. Può essere, secondo me era già uno slogan precedente, ma in ogni caso lo squadrone che tremava il mondo fa era invece del risale invece al ventennio e a un allora comunque attribuito a un allora importante gerarca che era un grande tifoso del Bologna. Il ripasso di storia, beh, già questo comunque era un piccolo nel suo genere, insomma, si faceva si ambientava lì. Il ripasso di storia, quello vero, affidato a Nicola Filippone. Sembra ieri. 28 aprile 1996. Alla terz'ultima giornata, il Milan conquista matematicamente il suo 15° scudetto, battendo per 3-1 la Fiorentina di Ranieri. Le reti della vittoria rossonera portano le firme di Savicevic, Baggio e Simone, dopo il vantaggio viola siglato da Rui Costa. Finisce così il ciclo vincente di Fabio Capello, che ha raccolto il testimone da Sacchi 5 anni prima, vincendo 4 scudetti e una Coppa dei Campioni, e ha stabilito, con 58 partite senza sconfitte, il nuovo primato di risultati utili consecutivi. Il tecnico friulano ha già raggiunto un accordo per allenare il Real Madrid. La sua scomoda eredità rossonera sarà raccolta dall'uruguaiano Tabárez. Friulano arioso, bisiaco per essere precisi, perché se no i friulani se la prendono. Se la prende anche Lori da Milano, che con dice: due presidenti di questo calibro che si perdono in discorsi da bar, come farà mai a salire di livello il calcio italiano? Ma secondo me scherzavano. Sentiamole alle prese, dai, diamogli una prova d'appello e sentiamole alle prese con un altro argomento. Sentiamo Berlusconi su Ancelotti. Io sono un amico di Ancelotti, sono un suo amico, un suo estimatore, eccetera. La società e Ancelotti si sono dati questo appuntamento. Ci sediamo a un tavolo per discutere dell'anno prossimo e degli anni che vengono dopo la fine di questo campionato. Questa è la posizione vera ed ufficiale e ufficiosa della società. Ufficiale e ufficiosa. Sentiamo Moratti su Ibrahimovic. No, ma non mi è sembrata così esagerata come cosa. Forse, tra l'altro, è di qualche settimana fa. No, ho fatto un accenno con Ibra, ci parleremo, non mi è sembrato in una condizione di nervosismo o cose del genere. C'è anche la partita che ha giocato a Napoli, o meglio che non ha giocato a Napoli Ibrahimovic, ma insomma. C'è anche un parere di Mancini sul conto di Ibrahimovic, ma prima ci sono molti ascoltatori da, come dire, evadere prima di arrivare alla fine, quindi vediamo se ci sarà poi tempo, se no questo Mancini su Ibra non passa certamente d'attualità. Franco ha chiamato dalla provincia di Sassari, buongiorno. Buongiorno, io sono un tifoso del Cagliari, volevo un suo giudizio in riferimento al gioco del Cagliari più che ai risultati, che sono palesi, quelli non si discutono. E poi mi chiedo come si possa pensare nella buona fede degli arbitri quando un arbitro che a 5 metri di distanza vede un fallo incredibile su Del Piero, parlo di Reggio Calabria domenica, e non accenna neanche all'ammonizione, perché quello era un fallo da espulsione quantomeno, visto che era da dietro. Vorrei sapere cosa ne pensa, l'ascolto della radio. Grazie. L'errore di Saccani domenica a Reggio Calabria ha abbastanza dell'incredibile, perché se non era a 5 metri era a 10, e comunque sì, è proprio un errore di rara gravità, compensato nel secondo tempo da un rigore che, insomma, diciamo che come minimo era assai abbondante, e quindi questo questa della coda di paglia postuma è la prova del 9, che l'errore è stato particolarmente grave. Il Cagliari gioca in certi tratti, ha giocato il miglior calcio del campionato, e comunque da quando dopo gli zero punti alla quinta giornata ha avuto un rendimento veramente di alto livello. Credo che alla fine la palma della sorpresa stagionale, a parte che è una palma molto, molto teorica, non c'è nulla di concreto, ma insomma sarà abbastanza difficile scegliere tra il Genoa e il Cagliari, considerato però la caratura superiore del Genoa, comunque gli investimenti superiori che il Genoa ha fatto. Molto dipenderà la finale di stagione. Io anche come qualità di gioco, non è la prima volta che lo dico, per me è il Cagliari la squadra, la più bella squadra di quest'anno, anche perché è quella che non ti aspetti, insomma. Fausto, chiamato da Lodi, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Solo un pensiero su Mourinho. Quest'uomo ha detto che lui in Italia fa 3 anni e poi non resiste di più perché preferisce andare da altre parti. Considerato che l'Inter gioca malissimo, che come ha detto lei si deve curare la preparazione, l'anno prossimo se c'è la Supercoppa è a Pechino, l'Inter la preparazione la farà a Los Angeles, considerato tutta la terra bruciata di giocatori persi per strada che non giocano mai, tipo Domenica, non si sapeva chi poteva mettere dentro perché sono spariti un po' tutti. Cioè lei insomma mi pare di capire che se per caso dovesse levare il disturbo prima non piange, ecco. Lo levava la settimana scorsa magari. Cioè nel senso, quanto durerà per lei? Ah no, non la minima idea, per me è già durato anche troppo, pensi un po' come genere, come simpatia nei confronti suoi e come stima da un punto di vista tecnico e tattico, in rapporto sempre alle attese e ai guadagni, intendiamoci, perché può darsi che lui insomma, in interregionale si trovi anche di peggio da un punto di vista tecnico, ma qui stiamo parlando di uno speciale, quindi si immagini che cosa avremmo dovuto vedere quest'anno. Invece più che altro abbiamo sentito più che vedere cose che ci hanno colpito, dal mio punto di vista in negativo, poi per altri, per esempio il Foglio l'ha adottato a suo idolo, no? E quindi anche questa per me potrebbe essere una prova del 9, ma insomma sono tutti giudizi di parte. Francesco da Ancona. Buongiorno dottor Garangini. Sì. Senta, io domenica mi sono scelto da vedere su Sky Milan Palermo e in ordine alla direzione di Rizzoli mi sono fatto un'idea che non le dico perché il mio parere non conta nulla, però poi la sera ho visto la Domenica Sportiva e Tombolini ha giustificato tutto dicendo che Rizzoli aveva applicato alla lettera il regolamento in ordine ai due calci di rigore assegnati al Milan. Però la cosa che mi ha sorpreso è che leggendo le cronache dei giornali che giustificavano il Milan a valanga così, l'arbitro eccetera, però poi all'arbitro tutti hanno dato 5, 5 e mezzo, dovevano dargli 8. Da dove viene questa incoerenza? Non lo so Francesco, sinceramente è un tipo di dibattito che non mi appassiona. Io credo che quando una squadra gioca bene come ha giocato bene il Milan domenica e vince una partita così largamente 3-0, stare a sfrucugliare la moviola sia veramente una perdita di tempo, un esercizio di puro onanismo a parer mio. Diverso è dire che in questa larga e netta e strameritata vittoria c'è stata indubbiamente l'agevolazione di un rigore iniziale che dire che ha suscitato qualche perplessità è il minimo, però molto oltre non mi sembra sia il caso di andare. Stefano Bologna, buondì. Buongiorno. Tanto tengo per il Bologna, quindi volevo solo provare a capire i 6 punti del derby del Inter Milan, che Berlusconi ha detto che c'erano i 6 punti. Credo che il suo ragionamento sia: tolgo 3 punti all'Inter e ne do 3 al Milan, però la matematica non è un'opinione, manca il riscontro della vittoria poi del Milan. Beh, ma lì c'erano anche gli immancabili destini, magari come fa lei a essere a essere così scettico, la prego. Non stiamo parlando soltanto del presidente del Milan, che poi forse formalmente non lo è nemmeno, o di nuovo più, non lo ricordo, sinceramente non lo ricordo, stiamo parlando di ben altro, e dunque la invito al rispetto. 14:55 e 55, grazie a Filippo Aureggi in regia, Flavio Suardi in redazione, e buon pomeriggio, Giornale Radio.